Ciao, sono Angelo, vivo a Roma, ho 44 anni, lavoro come dirigente in una società di telecomunicazioni per la quale viaggio parecchio, praticamente tutto il mondo.